Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente, come anticipato, ci occuperemo anche noi della notte più importante, non solo per gli Stati Uniti, ma devo dire anche a livello geopolitico, se si può usare questo termine, per il mondo intero, la notte elettorale americana, diretta questa notte dalle ore 24 su Radio 24. Ma avremo un approfondimento a Focus Economia oggi, poi anche domani, quando conosceremo se avrà vinto Barack Obama o Mitt Romney, sui temi economici. È inutile dire che questa campagna si è giocata anche e soprattutto sui temi economici, ma al di là delle proposte dei due candidati, quella di Obama molto in continuità con i quattro anni appena trascorsi, quella di Romney in realtà più ammorbidita rispetto a una posizione più intransigente all'inizio della campagna elettorale, però al di là delle proposte dei due candidati c'è un appuntamento che nessuno dei due candidati, quindi il futuro presidente degli Stati Uniti, potrà mancare. Mi riferisco al 31 dicembre di quest'anno, perché in America per legge, se non si troverà un accordo tra il presidente, il nuovo presidente o comunque degli Stati Uniti e il congresso, scatteranno in automatico quei tagli chiamati fiscal cliff, ossia il precipizio fiscale, perché sostanzialmente se non si trova un accordo a livello del congresso per ridurre il deficit, in automatico vengono tagliati sostanzialmente le spese pubbliche e vengono aumentate le imposte. Questo chiaramente porterebbe l'America a una nuova recessione con conseguenze mondiali, perché vorrebbe dire una drastica riduzione di tutte le spese americane, degli ordinativi e anche dei consumi interni, e un po' come è avvenuto in Europa, dove continuiamo a aumentare le tasse e in Italia poco poco a ridurre le spese. I repubblicani hanno sempre respinto ogni proposta che, oltre ai tagli alle spese, prevedesse anche un aumento delle tasse, ma insomma con un debito pubblico che ammonta in questo momento a 16 mila miliardi di dollari e un deficit che viaggia ampiamente oltre il 10% del PIL, vicino al 13%. Ancora tra i temi di questa puntata partiremo invece però dall'Italia. L'ILVA di Taranto, l'annuncio di 2000 operai in cassa integrazione da un lato, dall'altro l'incontro tra Fiat e sindacati a Pomigliano. Da quello che è appena uscito dalle agenzie è un nulla di fatto nell'incontro di Pomigliano. Dall'altro, mi riferisco sempre alle vicende italiane, abbiamo anche notizie che riguardano chiaramente la borsa. Borsa che procede a Milano con un rialzo che sta mantenendo da almeno 3-4 ore più 0,80%, che è assolutamente identico a quello di Parigi, Francoforte più 0,70%, Londra più 0,60%, gli Stati Uniti più 0,60%. Molto bene oggi Fiat Auto più 3% per notizie relative soprattutto a Volkswagen, che punta a raccogliere liquidità attraverso un'emissione di obbligazioni, corporate bond si chiamano in gergo. E il mercato ragiona su cosa potrà fare Volkswagen o Volkswagen di questi soldi, e rispunta l'ipotesi di un interesse per Alfa Romeo o addirittura per Ferrari. Autogrill bene anch'essa, più 2,70%, ST Microelectronics più 2,30% come il Banco Popolare, Finmeccanica più 2% come il Monte dei Paschi, Unicredit più 1,60% come la Popolare di Milano, l'1,4% lo guadagna Ansaldo STS ed Eni, l'1,3% il rialzo di Parmalat, l'1,2% di Snam, l'1% quello di Prismian e anche di Lottomatica. Fronte opposto, Tenaris meno 1,20%, Ferragamo meno 0,60% come Saipem, Tods meno 0,30%. 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. sul dollaro è a quota 1,2804, il petrolio è sempre sotto i $90 al barile, ma è leggermente in rialzo, 86,4 dollari. E la benzina, questa è una buona notizia, la benzina è scesa sotto 1,8 euro al litro per la prima volta da febbraio. La Total Erg vende la verde a 1,794 euro al litro, anche Kuwait a 1,799 euro. Restiamo sulle notizie che provengono dall'estero, perché era oggi già su alcuni giornali, ma c'è una sentenza storica che arriva dall'Australia, dove l'agenzia di rating americana Standard & Poor's, una delle tre che decidono il voto ai debiti non solo dei paesi ma anche dei privati, ha perso una class action, quindi una causa collettiva, dopo essere stata riconosciuta colpevole di aver assegnato in modo fuorviante e ingannevole un giudizio di AAA, quindi di massima affidabilità, su prodotti derivati che poi si sono rivelati tossici. Lo dico con massima prudenza, però il verdetto rappresenta una svolta significativa, anche perché potrebbe spianare la strada ad azioni simili in Europa contro le agenzie di rating. Allora, l'accusa qui non è di aver dato... tutti possiamo sbagliare nella vita, però l'accusa è chiaramente di aver assegnato in modo volutamente fuorviante e ingannevole su titoli tossici da AAA, su titoli derivati da AAA. Ascolteremo poi quella che sarà la replica di Standard & Poor's. Quello che è certo è che i titoli derivati poi si sono dimostrati altamente tossici e altamente a rischio. Appunto, il timore per Standard & Poor's, ma invece la speranza per i risparmiatori, è che altre azioni di class action vengano condotte in Europa contro le potenti agenzie di rating. Su questo io vorrei, perché visto che a mio avviso una delle colpe di Barack Obama è stata in questi 4 anni non riuscire a fare una riforma seria della finanza statunitense, separando tutti i conflitti di interesse che esistono, e sono tantissimi, che sono stati creati dal Glass-Steagall Act, dalla fine del Glass-Steagall Act, e quindi dalla separazione tra banca d'affari e banca che raccoglie risparmi, unendo le due cose, mettendo per esempio tutti gli strumenti derivati non sotto il controllo della Federal Reserve ma della SEC, un controllo più morbido, insomma tutto quello che ha portato poi alla bolla e alla crisi del 2008 è stato minimamente intaccato da Obama e dal timidissimo Timothy Geithner, Timothy come timido, a nostro avviso troppo vicino agli interessi di Wall Street per fare una riforma che vada contro quegli interessi stessi. E ho visto che Barack Obama, se vincerà, pensa a un altro segretario del tesoro. Su questo c'è un film, a me piace ricordarlo ogni volta, bellissimo, si chiama Inside Job, ha vinto l'Oscar come miglior documentario nel 2011. C'è un passaggio di questo film in cui si racconta il ruolo delle agenzie di rating, che prima avevano dato giudizi AAA e quindi di massima affidabilità, uno investe con questo, e poi quando furono chiamati al congresso a deporre dissero: ma le nostre erano solo opinioni. Sì, peccato che le vostre solo opinioni muovano interi mercati, facciano crollare o aumentare gli spread e quindi tassi di interesse. L'opinione che do io o che dà il tecnico in regia non se la fila nessuno, per fortuna. L'opinione di Moody's e Standard & Poor's costa allo Stato italiano per esempio miliardi in tassi di interesse, oppure ai singoli privati. Quindi è troppo facile dire sono solo opinioni se poi voi rappresentate la Bibbia. Comunque sentiamo questo passaggio. Le tre agenzie di rating Moody's, Standard & Poor's e Fitch guadagnarono miliardi dando il massimo dei voti a titoli rischiosi. Moody's, la più grande agenzia di rating, quadruplicò i suoi profitti tra il 2002 e il 2007. La Moody's e la Standard & Poor's venivano ricompensate sulle basi dei rating che davano, e più AAA davano, più alti erano i guadagni per la società. Immaginate di andare al New York Times e di dire: se mi scrivete un articolo positivo vi pago $500,000, se non lo fate non vi do niente. Le agenzie di rating avrebbero potuto interrompere la festa e dire: ci dispiace, dovremmo alzare i nostri standard, e tagliare immediatamente il flusso di finanziamenti verso mutuatari rischiosi. Gli strumenti valutati con la AAA passarono da una manciata a migliaia e migliaia. Centinaia di miliardi di dollari venivano valutati... Ogni anno? Ogni anno, sì. Ho testimoniato di fronte al Congresso e alla Camera dei rappresentanti sul problema delle agenzie di rating. Ed entrambe le volte i loro avvocati hanno tirato in ballo il primo emendamento, rivendicando il fatto che il loro giudizio di AAA era solo la loro opinione e che le persone non dovevano basarsi solo su di essa. I rating esprimono un'opinione. I nostri rating sono la nostra opinione. Opinioni. Opinioni non sono altro che opinioni. Credo che abbiamo enfatizzato il fatto che i nostri rating sono opinioni. Opinioni, opinioni, però intanto in Australia appunto viene riconosciuta colpevole Standard & Poor's per aver assegnato in modo fuorviante e ingannevole un giudizio di AAA. Ah, nel frattempo spostiamoci alla Grecia, dove si sono concluse oggi, per fortuna senza alcun incidente, le manifestazioni di piazza nelle principali città, non solo ad Atene. Domani sarà lo sciopero generale nell'intera Grecia contro le misure di austerità volute dalla Troika, e quindi Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea e Banca Centrale Europea. Tra l'altro l'affluenza dei partecipanti è stata di molto inferiore a manifestazioni analoghe convocate negli ultimi mesi. Gli organizzatori comunque hanno addossato la responsabilità della scarsa risposta all'azienda dei trasporti pubblici, che non ha, a differenza di quanto fatto in occasione di precedenti scioperi, non ha lasciato in servizio autobus e tram. E di Grecia parleremo nella seconda ora del programma, dopo l'approfondimento sull'America. Però la notizia che anche i nostri GR vi hanno riportato, che mentre prosegue in Commissione Finanze del Parlamento greco il dibattito sul disegno di legge che prevede una lunga serie di misure di austerità in Grecia e taglia il bilancio per 13 miliardi e mezzo di euro nel 2013-2014, questo per avere poi aiuti per 31 miliardi di euro, praticamente dopo la svizzera Roche e la danese Novo Nordisk, che già un anno fa sospesero le forniture di medicinali alla Grecia, oggi anche la tedesca Merck Serono non fornisce più l'Erbitux agli ospedali greci. Questo perché lo Stato non sta pagando. Ora voi direte: che cosa serve l'Erbitux? Beh, è un farmaco che serve per le persone colpite da diversi tipi di cancro, e solo nel 2010 la Merck Serono ha guadagnato 1 miliardo e 300 milioni, più altri 900 milioni nel 2011. Chi vorrà potrà comprarlo direttamente nelle farmacie, sostiene la Merck Serono. Peccato che se uno se lo compra come privato e quindi non convenzionato, le spese complessive per un malato di cancro possono arrivare a 4.000 euro al mese. 4.000 euro al mese. Dalla Germania arriva un vero e proprio crollo degli ordini all'industria, meno 3,3% a settembre. E invece in Francia, questo lo dico perché si discute spesso in Italia di come fare ripartire la crescita e quant'altro, la Francia, che ha tanti limiti rispetto a noi, ha delle imprese, soprattutto le piccole e medie, molto meno competitive delle nostre nei mercati internazionali, esporta molto meno di noi, ha un mercato meno concorrenziale se possibile anche del nostro, ha uno Stato se possibile anche più invadente nell'economia rispetto al nostro, tutto quello che volete, però ha un welfare che funziona, un'amministrazione pubblica che funziona, e le tasse sono alte anche in Francia, solo che lì funzionano le cose. E poi decide dove puntare per lo sviluppo, a torto o a ragione, ma decide. Invece il governo Monti non ha mai deciso, non ha mai fatto capire quali fossero le linee guida per la crescita. e devo dire non è che il governo precedente ci avesse dato qualche idea più precisa, anzi, però, dopo il rapporto Galloise sulla competitività consegnato ieri, il governo francese oggi ha varato le prime misure conseguenti, cioè ieri viene consegnato il rapporto, oggi partono le misure. Il premier Jean-Marc Ayrault infatti ha annunciato un pacchetto di misure che prevede 20 miliardi di crediti di imposta per le imprese, 20 miliardi di crediti di imposta per le imprese e un'evoluzione dell'IVA dal 1 gennaio 2014. Poi c'è tutto il pacchetto in Francia che vuole appunto arrivare a una diminuzione drastica del cuneo fiscale, della differenza tra quanto costa un dipendente a un'impresa e quanto poi riceve in busta paga. Da noi ormai siamo arrivati che per un lavoratore del mondo dei servizi e industria, su 1.200 euro netti che prende in busta paga, il costo per le imprese è di 2.200 euro lordi. Che vuol dire contributi, oneri sociali e tasse. E ancora veniamo invece all'Italia. Il premier Mario Monti oggi è in Laos e ha detto, ma riferita alla frase di Angela Merkel, della cancelliera tedesca, che nel fine settimana aveva detto ci vorranno 5 anni per uscire dalla crisi. Non sono convinto se servirà così tanto. Non ho forse gli strumenti di previsione ai quali può aver fatto ricorso la cancelliera e i suoi consiglieri, però so che servirà tempo. E mentre il ministro Fornero dice che tra i criteri per l'aumento della produttività c'è il depotenziamento degli automatismi, compresa la rinuncia all'indicizzazione dei salari e i prezzi in via automatica, ossia che i salari già sono indicizzati a un'inflazione programmata che è molto più bassa rispetto a quella reale, l'inflazione reale è al 3,4, l'inflazione programmata, che è quella che il governo vorrebbe ottenere, è all'1,4-1,5. Questo vale per le pensioni, per i salari, e comporta un'inevitabile perdita di potere d'acquisto se non scattano poi altri tipi di aumenti. Non vorrebbe la rinuncia all'indicizzazione dei salari e ai prezzi in via automatica. Va bene, mi chiedo però come fai a mantenere il potere d'acquisto, devi incamerarla in qualche modo nei rinnovi contrattuali. E poi il ponte sullo stretto. Per ora l'amministratore delegato della società Stretto di Messina e amministratore unico di ANAS, Piero Ciucci, ha detto che finora il ponte sullo stretto ha inciso sulle finanze pubbliche per 13 milioni di euro, che sono pochi. Però il problema sono i contratti che ha preso la società Stretto di Messina con gli appaltatori, quindi General Contractor, perché da quello che si legge, da quello che capiamo, sono contratti così svantaggiosi per lo Stato, cioè se tu dovessi rinunciare all'opera, che le penali potrebbero essere anche superiori ai 300 milioni di euro. A me non interessa sapere quanto ha speso fino adesso il ponte sullo stretto, per me non doveva spendere neanche 13 milioni di euro, però il problema è capire quanto ci costerà alla fine il giochetto, lo scherzetto, il sogno faraonico. Una buona notizia per chiudere, anzi partiamo da cos'è questa crisi e poi invece una buona notizia. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, io questa notizia la prendo con le pinze perché ci è arrivata una lettera di un ascoltatore molto dettagliata. Chiedo, e abbiamo già contattato l'ufficio stampa dell'aeronautica militare per verificare se sia vero oppure no. Allora, quest'estate sarebbero state ordinate con ordinativo 71224 sarebbero state consegnate al 14° deposito centrale dell'aeronautica militare di Modena 10 BMW 525 di grigio metallizzate dal costo di 70.000 euro l'una per un totale di 700.000 euro da destinare ai colonnelli. Eccoci qua. Dopo che ricorderete la polemica, i generali dell'aeronautica si erano muniti di Maserati. Due di esse, tra l'altro, sarebbero già state consegnate al reparto servizi generali dell'aeronautica di Roma, dove appena venuti a conoscenza che stavano arrivando le BMW 525D grigio, hanno declassato come inefficienti le due Lancia Tesis che stavano usando nel frattempo. Allora, per carità, non saranno 700.000 euro. Però, siccome abbiamo già fatto alcune puntate sui costi delle strutture militari italiane, ma non i costi interessanti, non quelli operativi, non quelli per i militari in Afghanistan, ma i costi da casta, la misura dell'ufficio, i metri quadri che deve avere la scrivania, i dipendenti che devono lavorare per il generale, le automobili. Ma è possibile girare con la BMW e con la Maserati? Lavori l'aeronautica, ma prendi un'auto italiana, un'auto normale, ma che serve? Poi l'aeronautica, prendi un aereo, un elicottero, non lo so. Ma stiamo scherzando veramente, 700.000 euro in questo periodo e poi lamentano sempre tagli al budget. Allora, aspetto cortesemente dall'ufficio stampa dell'aeronautica militare una smentita, che non è vero. L'ordinativo comunque, ripeto, è 71224, è un uccellino che lavora nell'aeronautica militare che ci ha mandato questa lettera. Però vorrei chiudere con una cosa positiva e mi riferisco a Vicenza e all'alluvione. Se ne è occupata oggi Controluce con Piera Ceci. Ricorderete 2 anni fa l'alluvione a Vicenza del fiume Bacchiglione, che portò un disastro anche e soprattutto, oltre che ai 3 morti e ai civili, per le centinaia di imprese che si trovavano nella zona. Ebbene, a distanza di 2 anni non solo si sono risollevate, ma una volta tanto, e lo dice lo stesso presidente della Confindustria di Vicenza, Giuseppe Gigliotto, tutti gli attori, anche il mondo assicurativo, si sono comportati in maniera molto corretta, molto onesta e molto efficiente. Beh, allora, per quanto riguarda i danni effettivi, devo dire che è andata forse meglio di come pensavamo a suo tempo. Devo dire che comunque c'è stata molta serietà da parte del territorio, perché di fronte a una stima di danni molto importante, in realtà poi le domande di rimborso furono per importi eccessivi, a dimostrazione che la gente non ne ha approfittato, anzi è stata molto seria e addirittura molti si sono arrangiati. Devo dire che proprio di fronte a una verifica in questi giorni le aziende hanno quasi subito avuto circa un terzo dell'importo e hanno avuto tempo 2 anni per sistemare i vari danni avuti, e in questo periodo proprio stanno completando le domande oppure ricevendo i saldi dei lavori fatti. E devo dire che questo è stato per noi una buona sorpresa, anche scoprire che anche le assicurazioni, che potevano un po' giocarci sul fatto attaccarsi su alcuni punti delle pratiche per evitare di rimborsare, in realtà sono state serie. La preoccupazione invece è il futuro, invece, perché una volta sistemati i danni e messi in condizione di tornare a operare, la consapevolezza invece è che noi si è fatto un po' poco invece per evitare che questo possa ripetersi. Cioè, sono stati sistemati gli argini, ma in realtà dal punto di vista di quelle che possono essere le misure per attenuare problemi e rischi futuri, siamo invece ancora fermi completamente. Noi come Confindustria abbiamo, anche utilizzando delle raccolte fondi fatte con i nostri associati, abbiamo deciso di partecipare al progetto, e quindi sosteniamo un progetto con un investimento di 75.000 euro, quindi non poco, per un'area di laminazione, quindi una specie di bacino in cui poter scaricare l'acqua nei momenti in cui gli argini sono al limite. Il problema è che una volta anche fatto il progetto, se non ci saranno soldi dal punto di vista della regione o dello Stato per creare questi bacini, lei capisce che se si ripeterà quello che è successo 2 anni fa, ci ritroveremo esattamente al punto di prima. Bene, complimenti ai vicentini, a tutti i soggetti, banche, imprese, anche il governo del territorio, ci mancherebbe, imprenditori, perché è un caso in cui si dimostra che la ricostruzione può essere fatta, e fatta anche bene. C'è chi scrive: oltre al gufo avete e al gallo avete anche il corvo, riferendosi a chi ci ha mandato la letterina. Beh, corvo, un corvetto. Insomma, guardate che arrivano parecchie lettere di casi vari di amministrazioni, eh? Adesso le stiamo raccogliendo, poi le verifichiamo. In attesa dell'ufficio stampa dell'aeronautica militare, saluto Domenico Palmiotti da Taranto. Buonasera Domenico. Buonasera Sebastiano. Non purtroppo per parlare della Marina Militare, ma di nuovo dell'Ilva. Oggi è arrivata la notizia che l'Ilva vuole la cassa integrazione per 2.000 dipendenti dal 19 novembre. Sì, certo, è finito da poco l'integrazione. incontro fra Ilva e sindacati. L'Ilva ha detto che il 19 novembre si attiva la procedura di cassa integrazione ordinaria e i 2.000 sono un tetto massimo. La cassa viene motivata con la crisi di mercato. Ormai sono diversi mesi che il mercato dell'acciaio è stagnante, soprattutto il settore dei tubi e delle lamiere, e quindi l'Ilva ricorre a quella cassa integrazione che sino adesso ha cercato di evitare, anche se questa cassa integrazione si inserisce in una situazione molto difficile per Taranto e per l'Ilva, perché sappiamo bene che lo stabilimento è in gran parte sotto sequestro da luglio per disastro ambientale. Si attende ancora che l'azienda dica una parola chiara su come intende applicare la nuova autorizzazione integrata ambientale. In più, una settimana fa c'è stato un incidente mortale e a seguito di questo incidente un'area importante del siderurgico, come il movimento ferroviario, alle prese da uno sciopero. minuti. Allora, Domenico Palmiotti, chiudiamo con l'Ilva. Quanto c'è di legame tra i 2.000 dipendenti da mettere in cassa integrazione il 19 novembre e il sequestro della parte considerata più inquinante, quindi la parte a caldo, gli altiforni dell'Ilva? No, non c'è nessun legame. Perché almeno appunto, no, questo chiariamolo, perché ripeto, l'automatismo è immediato. Non c'è nessun legame perché tutti gli impianti che si fermeranno sono della cosiddetta area a freddo, un'area che è a valle degli altiforni delle acciaierie, perché è l'area che produce tubi, lamiere, nastri, tutto quello che appunto viene, deriva dalla materia prima che è l'acciaio. E i 2.000 lavoratori, come ha detto l'Ivo, sono il tetto massimo. Il 19 novembre si attiverà soltanto la procedura, poi ci sarà un avvio graduale della cassa. L'azienda conta, se il mercato dovesse riprendere, di non utilizzare tutto questo plafond di 2.000 unità. L'ultimo reparto eventualmente a doversi fermare saranno i treni nastri, perché si spera appunto che il mercato dia qualche segnale di miglioramento. Invece il primo reparto che si fermerà sono i tubifici, seguiti subito dopo dai laminatori. Grazie Domenico Palmiotti, in collegamento con noi da Taranto. E da Taranto ci spostiamo a Pomigliano, quindi sempre nel nostro sud, dove si è tenuto, senza grossi, devo dire, risultati, l'incontro tra i vertici Fiat e i sindacati. Una risposta prima però a un ascoltatore che dice sì, sulle BMW ai colonnelli dell'aeronautica, la notizia che ci è giunta con una lettera anonima ma citando anche il protocollo. Per quanto riguarda le BMW ci può stare che le macchine servono, ma i prezzi sono molto alti, 70.000 euro l'una per un totale di 700.000 euro. No, mi scusi, ma perché ci può stare? Ma io non ho capito una cosa, ma non voglio fare il dolciniano, come hanno detto alcuni, o il Savonarola, ma perché il colonnello dell'aeronautica militare italiana deve girare con la BMW 525 diesel? Cioè, se vuole se la compra, no? Una macchina di servizio, si può capire. E poi perché non può essere una macchina italiana? Già il generale in Maserati, per andare dove poi? Torneremo su questo. Invece il ministro Fornero oggi ha commentato, veniamo alla Fiat, ha dato un giudizio su Marchionne molto lusinghiero. Considero Sergio Marchionne un bravo manager, ha preso un'impresa in grande difficoltà e le ha dato un futuro. Prendo atto, ha aggiunto delle sue parole, che Fiat ha un futuro anche nel nostro paese. Un manager che pensa che questo governo sta facendo cose giuste, dal quale non ho mai sentito critiche aspre o superficiali come da altri. Sarei contenta di averlo come alleato, lo dico da italiana. Va bene. Posso permettermi, prendo atto delle sue parole. Magari un ministro, più che prendere atto del comunicato della Fiat, può incontrare Marchionne e farsi dare una assicurazione definitiva, siccome è quattro volte che cambia piano la Fiat, va benissimo. Adesso è quello? Il piano che avete dato è quello? Non è che fra due anni rifacciamo altre puntate di Focus Economia dopo averne fatte decine sul progetto Fabbrica Italia? Non so, un ministro più che prendere atto potrebbe anche intervenire. In Francia, ministro Fornero, i ministri non prendono atto con la Peugeot. Indicano alla Peugeot, ma vabbè. Allora, nulla di fatto nell'incontro, Giovanni Sgambati, segretario dell'incontro tra sindacati e la Fiat. Oggi a Pomigliano d'Arco, Giovanni Sgambati, segretario regionale della UILM. È un incontro che poteva solo prendere atto dai punti di distanza. Auspichiamo nelle prossime ore un atteggiamento più costruttivo, perché la tensione che si crea a Pomigliano non aiuta né i lavoratori e né la Fiat e né il paese. Noi siamo consapevoli che troveremo una soluzione che possa escludere ogni licenziamento a Pomigliano. Non c'è una data precisa, ma è evidente che troveremo il modo nei prossimi giorni di ritrovare la possibilità di incontrarci. E poi il segretario della CISL Bonanni, che ha chiesto alla Fiat di fare un passo indietro, alla FIOM di fare un passo in avanti. Alessandra Schepisi ha seguito per noi l'incontro. Buonasera Alessandra. Sì, buonasera Sebastiano. Altri 45 giorni di tempo, ho capito bene? Sì, ci sono altri 45 giorni di tempo, quindi per il momento, come diciamo, questo incontro che si è concluso con un nulla di fatto non è stato riaggiornato, è probabile però che ci sia un successivo incontro. Ci sono 45 giorni di tempo perché tanto dura la procedura di mobilità. Durante l'incontro, che si può definire forse interlocutorio, i sindacati hanno ribadito la richiesta di ritirare i provvedimenti di mobilità, mentre il management dell'azienda ha mantenuto la propria posizione. Un incontro che, lo ricordiamo, ha messo uno di fronte all'altro l'azienda e i sindacati del SI, cioè quelli che hanno siglato gli accordi voluti da Marchionne sul nuovo modello contrattuale contestato invece dalla FIOM, ma che hanno alzato un muro di sbarramento contro l'annuncio del Lingotto di mettere in mobilità i 19. Ecco, le voci che sentivamo in sottofondo erano contestate, perché ci sono anche delle contestazioni ai leader sindacali quando sono arrivati? Sì, i leader sindacali di FIM, FISMIC, UILM e UGL sono arrivati allo stabilimento di Pomigliano, sono stati contestati da un gruppo di lavoratori appartenenti a Cobas, ci sono stati fischi, striscioni, comunque un gruppo relativamente piccolo, ecco, di lavoratori. Va bene, staremo a vedere altri 45 giorni per capire cosa succederà ai 19 dipendenti messi in mobilità come conseguenza, dice la Fiat, del reintegro dei 19 dipendenti deciso dal Tribunale. Grazie Alessandra Schepisi. Pagina americana adesso inizia, poi faremo anche la borsa. Però lancio una petizione, visto che stanno arrivando molti sms sul parco macchine di vari enti locali, ministeri, amministrazioni. Ci scrive un ascoltatore: Comune di Milano, la Direzione Centrale alla Mobilità e Ambiente ha in dotazione una Mercedes CL 6300 AMG da 570 cavalli, 120.000 euro di costo. Scrivete l'indirizzo focuseconomia@radio24.it e poi, mi raccomando, nella massima serietà e affidabilità. Torniamo agli Stati Uniti e quindi passiamo alla pagina americana che ci accompagnerà fino quasi alla fine del programma. Francesco Guerrera, caporedattore finanziario del Wall Street Journal, buonasera. Buonasera. Ciao. Tu devi lasciarci alle 18, giusto? Sì, purtroppo sì. Vabbè, lasciarci nel senso di collegamento, ci mancherebbe. Sì, sì. Allora, una previsione Obama-Romney e cosa capiterà entro il 31 dicembre, il dramma, il pericolo del cosiddetto cliff, del precipizio fiscale, fiscal cliff. Sì, è veramente quello sarà il problema più importante, visto a seconda di chi vince, ma anche a dispetto di chi vince, dovranno immediatamente occuparsi di questo, perché altrimenti si tratta di una perdita del prodotto interno lordo del 5%, se appunto gli sgravi fiscali e i tagli di spesa vengono riconfermati. Quindi siamo a livelli di recessione, quindi sicuramente qualcosa succederà, sia se vince Obama sia se vince Romney. Il problema in questo momento dei mercati, che tra l'altro oggi stanno andando abbastanza bene, anche un po' a sorpresa, comunque il problema sarebbe se ci fosse un'indecisione, se arriviamo a un momento in cui la corsa è talmente tirata, talmente vicina, che non sapremo cosa succederà stanotte o domani mattina da voi. Sì, questo è un rischio sempre. Tutti ricordiamo anche come un incubo professionale la vicenda Bush-Gore, perché non si finiva più di farla diretta. Ma al di là di questo, è chiaro che l'incertezza è la cosa peggiore. Il fiscal cliff, lo chiarisco a tutti, è sostanzialmente il fatto che o si trova un accordo dentro il Congresso, anche con i repubblicani e il Presidente, sulla riduzione della spesa e eventualmente un aumento di tasse, o se no scatta in automatico l'aumento delle tasse e i tagli alle agevolazioni, con una perdita del PIL americano che farebbe meno 5% a quel punto, no? E quindi a quel punto crollerebbero gli ordinativi americani, i consumi americani, e entreremmo in una recessione di origine statunitense. Secondo te comunque si arriverà a un accordo, o è più probabile che lo si faccia con Obama o con Romney, Presidente? Sicuramente si arriverà ad un accordo che non è un accordo finale, quindi si arriverà ad un compromesso, soprattutto un compromesso sia che vince Romney sia che vince Obama, un compromesso comunque che non risolverà la situazione, ma che permetterà ai politici di prendersi del tempo. L'altra cosa che è più o meno certa è che sarà un compromesso dell'ultimo minuto, quindi tra adesso o tra domani e la fine di dicembre avremo dei mercati molto nervosi, perché come al solito il Congresso e il Presidente della Casa Bianca faranno i soliti compromessi dell'ultimo minuto, negoziati fino all'ultimo, e quindi saranno momenti abbastanza duri per un po' tutto, per i mercati finanziari in generale, senza nemmeno contare l'Europa e tutto il resto, ma solamente i mercati finanziari americani. Però sarà un compromesso. Però tu non ritieni che uno dei due candidati possa avere maggiori possibilità di fare un compromesso? Chiedo. No, perché in realtà secondo me il fatto che una cosa che è certa stasera, almeno proprio di sorprese incredibili, è che il Congresso rimarrà diviso tra repubblicani e democratici, quindi chiunque vinca, Obama o Romney, avrà da contendere con un Congresso che comunque è diviso, e che comunque, dove gli altri, il partito dell'opposizione, diciamo, comunque tenterà di bloccare un po' tutto, e quindi la situazione è difficile. Tutto sommato, se poi andiamo a guardare le politiche sia di Obama sia di Romney per quello che riguarda il precipizio fiscale, sono abbastanza simili. Tutte e due parlano di dover fare un compromesso, di ridurre la spesa, certo le ricette sono diverse, però comunque il Congresso non sarà d'accordo con uno di loro immediatamente, quindi ci sarà una solita e difficilissima, certo, tortuosissima negoziato tra qui e il 31 dicembre. ...18:06, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Diamo l'aggiornamento adesso di borsa e poi ripartiamo con i temi americani. Molto chiaro, a mio avviso, il ragionamento che ha fatto il collega del Wall Street Journal, Francesco Guerrera, cioè chiunque vinca dovrà cercare questo accordo con il Congresso americano, altrimenti si rischia il baratro. Cliff vuol dire infatti strapiombo in questo caso, perché altrimenti il 31 dicembre scatterà in automatico l'aumento delle tasse in America, il taglio dei contributi, dei finanziamenti, delle agevolazioni, con un calo del PIL americano prodotto da questa decisione del 5%. Vorrebbe dire riportare e far ripiombare l'America in recessione. Ecco perché si chiama strapiombo, precipizio fiscale, fiscal cliff. Comunque la borsa... Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, borsa oggi leggermente più in ritardo, volevamo beccare anche la chiusura di Wall Street, scherzo, perché quella l'avremo molto più tardi, però il Dow Jones guadagna adesso l'1,30% e non era scontato che la borsa crescesse la notte delle elezioni, fermo restando che, come spiegava anche Guerrera, l'incertezza, un eventuale risultato molto incerto, quindi una risultato che non arrivasse nelle prime ore, ma addirittura domani mattina, nel pomeriggio, lì si potrebbe creare un po' di incertezza. Che cosa sta spingendo il Dow Jones? Sì, allora il Dow Jones viene spinto, ma appunto per l'attesa delle elezioni presidenziali americane, probabilmente verso metà seduta lì a Wall Street, sono i guadagni quelli che prevalgono, guadagni che sono prevalsi anche in Europa sul finale di seduta. Infatti le borse hanno iniziato ad accelerare, hanno chiuso poi sui massimi, come Milano, che appunto sulla scia anche del buon andamento dei listini americani ha chiuso poi in rialzo dello 0,90%. Più 0,90 Parigi, più 0,70 Francoforte, più 0,90 Milano e più 0,80% Londra. Parlavamo di Fiat fino a poco fa. Visto che parliamo di auto, fatemi dare una precisazione. Ci ha appena scritto Luca Tosi, direttore dei sistemi informativi di gestione dell'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio di Milano, dicendo che la notizia che abbiamo dato, leggendo un messaggio di un ascoltatore e chiedendo che venisse verificata, non è vera, non è distituita di ogni fondamento. Amat non è proprietà di nessun autoveicolo e non ha posseduto quello indicato né alcun modello analogo. Siamo contenti, prendiamo atto anche di questo, per dirlo con la Fornero. Comunque, Fiat più 3%, dovuta non tanto alle trattative sindacali o al piano Fiat, quanto a Volkswagen, giusto? Sì, assolutamente sì. Ricordiamo anche che il titolo ha recuperato terreno oggi dopo un forte calo negli ultimi giorni, ha segnato meno 12% nelle ultime 6 sedute ed è stato trainato dalle ipotesi secondo cui Volkswagen potrebbe utilizzare 2,5 miliardi che verranno raccolti sul mercato obbligazionario. L'annuncio proprio di oggi per possibili acquisizioni, tra cui è tornato a circolare proprio il nome di Alfa Romeo, quindi Fiat ne ha beneficiato e ha guadagnato quasi il 3%. Quindi il mercato si interroga su che cosa farà la Volkswagen di questi 2,5 miliardi che raccoglierà come prestito obbligazionario e appunto l'ipotesi che voglia andare in campagna acquisti. Le banche non male oggi, anzi il Banco Popolare più 2,40, la Pop Milano più 2,20, Unicredit più 2%, ancora Monte dei Paschi più 1,90, Popolare Emilia Romagna più 1% e poco altro. Devo dire, tra le banche UbiBanca più 0,70%. Sui titoli, l'automatica e Autogrill più 2,34%, l'automatica più 0,80%. Sì, allora Autogrill oggi ha beneficiato del ritorno delle indiscrezioni dello scorporo delle attività food and beverage, che è il business storico della ristorazione, da quelle retail e duty free, e una decisione, riferiscono appunto indiscrezioni stampa, potrebbe essere presa verso la fine dell'anno, quando sarà noto l'esito del rinnovo delle concessioni in Spagna. Ricordiamo anche che Autogrill approverà i conti il prossimo 8 novembre. Per quanto riguarda l'automatica, la società ha beneficiato ancora della notizia relativa all'estensione al 2020 del contratto con le lotterie della Nuova Zelanda da parte della controllata americana G-Tech. Ricordiamo che il contratto ha un valore di 14 milioni di euro. Ancora Tenaris invece è il titolo più negativo, meno 1,30%. E anche A2A, poi A2A alla fine è chiuso in parità. C'è molta attesa però per il piano industriale che verrà presentato tra 2 giorni. Direi Tenaris da un lato e dall'altra Beghelli, meno 7,17%, peggior titolo in assoluto. Sì, allora Tenaris ha risentito sostanzialmente dei giudizi negativi degli esperti sull'intero settore. Gli analisti hanno infatti rivisto al ribasso le stime di crescita per i prossimi 2 anni, quindi per il 2013 e il 2014, a causa soprattutto del rallentamento più marcato della domanda, dei maggiori costi legati alla produzione e all'aumento dei costi delle materie prime. Per quanto riguarda Beghelli è stato il titolo peggiore del listino, ha perso quindi oltre il 7%. La società realtà oggi ha comunicato di aver chiuso i 9 mesi con una perdita di 11,7 milioni di euro, ma ha soprattutto annunciato al mercato che non rispetterà le scadenze del debito previste per fine anno. Per questo motivo quindi la società ritiene necessario un piano di ristrutturazione e ha detto di stimare anche per esercizio in corso una forte contrazione della redditività operativa e un risultato netto ancora negativo. Ancora tra i titoli migliori e peggiori, Sintesi più 20%, Best Union Company più 12,36%, Pquadro più 7,60%, Risanamento più 6,50%, SNAI più 6,12%, tra i peggiori oltre a Beghelli, Premuda meno 6,16%, KR Energy meno 4,55%, Exprivia che è l'ex Ace Software meno 4,71%. Bene oggi tra i piccoli comunque anche Banca Generali è andata bene. Camfin come si è mosso oggi? Che un po' che... Sì, allora questa mattina Camfin continuava a salire, quindi come ieri, ma poi ha chiuso in calo di oltre l'1%. Ricordiamo che oggi si è riunito il CDA dell'azionista GPI per un ulteriore faccia a faccia tra i soci, quindi Marco Tronchetti Provera e la famiglia Malacalza. Grazie a Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso riapriamo la pagina americana, che in realtà non abbiamo mai chiuso, perché abbiamo detto che comunque vada a finire l'appuntamento per chi vincerà sarà identico, ossia scongiurare il precipizio fiscale entro il 31 dicembre. In realtà poi dei temi economici che hanno contraddistinto questa campagna elettorale abbiamo visto anche mutare, soprattutto su Romney, alcune indicazioni iniziali. Claudio Gatti, in collegamento da New York, dalla sede del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Diceva il collega Francesco Guerrera, insomma, l'appuntamento sarà analogo e sosteneva che un accordo con il Congresso hanno le stesse chance sia Barack Obama che Romney. Vorrei capire se tu sei d'accordo con questo e poi ragioniamo dei temi economici. Cioè chiunque vincerà avrà la stessa rogna e le possibilità di arrivare a un accordo con il Congresso sono identiche? Chiunque vincerà avrà sicuramente la stessa rogna. Il mercato e gli analisti tendono a pensare che Romney avrebbe più facilità a trovare un accordo con la leadership democratica del Senato di quanto Obama non possa avere con la leadership repubblicana della Camera. Quindi tu invece ritieni che, perché lì sono i repubblicani che si oppongono a un accordo... Sono i repubblicani che sono più rigidi, anche perché hanno sempre opposto per principio a qualsiasi soluzione che portasse a un aumento delle imposte, e mentre i democratici al Senato sono sempre stati più disponibili al compromesso. Quanto ai sondaggi, abbiamo visto addirittura i brokers lanciarsi, a mio avviso in maniera un po' così temeraria, in una previsione di bookmaker dicono Obama ha già vinto. In realtà tu ci confermi, lo dice Paddy Power, che è il bookmaker più influente d'Europa, che ha iniziato a... Personalmente già il giornale di oggi ho scritto che sì, è probabile che Obama vinca. Personalmente sono convinto. Il vero problema può essere... il rinvio dei risultati per via di elezioni in alcuni stati che potrebbero essere risolte senza il conteggio dei voti a distanza, gli absentee ballot eccetera eccetera, ci sono una serie di regole, tra l'altro c'è stato anche il problema di Sandy che può complicare il conteggio di questi voti, ma secondo me alla fine è molto probabile che vinca Obama. Al di là dello scoglio o del precipizio fiscale, l'accordo che il Presidente dovrà fare con il Congresso americano, come è stata da un punto di vista economico-finanziario questa campagna, come l'hanno vissuta i due candidati? Claudio Gatti, dicevo, Barack Obama forse un po' in difficoltà per alcune riforme non fatte, soprattutto la separazione dei conflitti di interessi nella finanza di Wall Street, la banca che raccoglie risparmi con la banca che fa investimenti speculativi, quindi la fine del Glass-Steagall Act, qualche misura più incisiva contro i banchieri di Wall Street e un Romney che è sembrato ammorbidire le posizioni più tipicamente repubblicane e intransigenti su meno tasse e meno attenzione però anche per il welfare. Ti ritrovi in questa analisi? Non c'è dubbio, anche se non si può non tenere conto del fatto che Obama si è scontrato contro la lobby più potente che esiste, America, quella del mercato finanziario. Però è anche il presidente più potente, è anche il presidente più potente teoricamente. Certamente, ma se ha bisogno di un miliardo di dollari per pagare la propria campagna elettorale, anche un presidente che dipende moltissimo da chi finanzia i partiti in questo paese, che per lo più sono i privati o appunto le grandi lobby. Infatti le banche gli hanno voltato le spalle, se non ricordo male. Esatto, JP Morgan. Per questo bisogna tenere conto, non c'è dubbio che è stata una riforma monca che peraltro non ha ancora alcuni provvedimenti attuativi, ancora non è stata portata a termine, ma la resistenza del Partito Repubblicano, oltre che delle lobby, e di parte del Partito Democratico è stata ha contribuito moltissimo a questo. La stessa battaglia per creare l'Agenzia per la protezione dei consumatori finanziari è stata una battaglia in salita in un momento in cui era, diciamo, logico pensare che dopo il collasso finanziario post Lehman ci fosse invece una spinta politica forte in quella direzione. Invece no, non c'è stato. Beh, le lobby servono anche a questo, Claudio. Scrive un ascoltatore che Romney comunque vorrebbe abolire la pur timida riforma di Wall Street fatta da Obama. Ma infatti è vero, cioè, diciamo la annacquerebbe di sicuro. Ti penso nell'ultimo secondo, scusa? Che la annacquerebbe di sicuro. La annacquerebbe di sicuro, quindi già una riforma timida diventerebbe ancora esatto, più annacquata. Tornando alla campagna elettorale e ai temi dell'economia, sei d'accordo che se Obama è sembrato in difficoltà, perché insomma lui è il presidente in carica, lui deve rispondere del suo operato e su alcune cose ci si poteva aspettare più coraggio, Romney invece ha quasi sorpreso l'elettorato più conservatore, più classico dei repubblicani, perché è sembrato ammorbidire molto le sue posizioni, o è sembrato a noi qua in Italia? Diciamo che Romney ha messo più tempo a riposizionarsi, ci si aspettava, essendo peraltro un candidato con un passato più da moderato, non dimentichiamo che lui è stato governatore dello stato più liberale d'America, che è quello del Massachusetts, e pur essendo repubblicano non sarebbe mai riuscito a essere eletto governatore di quello stato se avesse avuto una posizione troppo conservatrice, quindi non aveva quel pedigree, si è dovuto posizionare a destra per vincere le primarie, ci si aspettava che si rispostasse al centro presto, invece lo ha fatto molto più tardi. Quindi tu addirittura sei sorpreso che non abbia ammorbito le posizioni prima sul welfare? Assolutamente sì, perché diciamo è un percorso abbastanza classico, nelle primarie ci si sposta verso gli estremi per conquistare il voto dei fedelissimi che partecipano alle primarie e poi ci si riposiziona. Nello specifico di Romney è un repubblicano quasi della vecchia guardia di un tempo, ha un passato, viene dal nord-est, diciamo politicamente, perché è stato governatore del Massachusetts, tradizionalmente il repubblicano di questa area è un repubblicano moderato. Sì, non è il Midwest dei Tea Parties, per essere ancora più espliciti. Un'ultima domanda invece sul sondaggio che mi interessa, sugli exit poll e le proiezioni. È vero che Obama potrebbe vincere con i grandi elettori, ma essere molto meno scontato la vittoria, o comunque essere molto più appaiato sugli elettori effettivi? È quello che sembra, diciamo che le sue probabilità di vincere nei collegi elettorali sono molto più alte di quelle di vincere il voto totale, questo anche perché in alcuni stati popolosi come possono essere New York e California è possibile che il fatto che è scontata la vittoria di Obama potrebbe portare meno persone a votare. E quindi non viene sentito il testa a testa tra come avvenne invece tra Barack Obama e Bush. Scusatemi, non Bush. Ma grazie a Claudio Gatti, in questo momento in collegamento con noi da New York. Ripeto, Radio 24 a mezzanotte partirà con una lunghissima diretta che terminerà praticamente mai, nel senso che arriveremo fino alle 9-10 di mattina. Ammesso e non concesso che per quell'ora si sappia con esattezza il risultato elettorale, quindi ammesso e non concesso che i broker, per esempio, abbiano ragione nel dire sostanzialmente che Obama ha già vinto e danno Obama 5-1 contro Romney 7-1. Vorrei chiudere però con la Grecia, perché mentre l'America si interroga sul futuro presidente, la Grecia si interroga sul suo futuro tout court. Di nuovo paralizzata la Grecia e domani sarà sciopero generale. Prosegue intanto il dibattito in Commissione Finanze del Parlamento sul disegno di legge che prevede una lunga serie di misure di austerità, 13 miliardi e mezzo di tagli per riuscire a ottenere 35 miliardi di prestito, l'ultima tranche promessa dalla Troica. E Dimitri De Ioannis, che lavora per la RT, che è la RAI greca, è autore anche di un libro molto bello, Come la Grecia, quando la crisi di una nazione diventa la crisi di un intero sistema. Buonasera. Buonasera e grazie per le belle parole. Beh, ogni tanto ci capita, ma domani riavremo un collegamento anche con te. In questo momento, oggi, paradossalmente la situazione è sembrata essere molto più calma del previsto, meno manifestanti, nessuno scontro con feriti per fortuna. La giornata che sembrava il preludio a quella al Big Bang di domani è passata veramente in maniera tranquilla. Questo vuol dire che anche domani lo sciopero generale potrebbe avere effetti meno devastanti rispetto agli ultimi mesi? Beh, magari, ma temo che non sarà così. Oggi c'era pochissima gente per strada perché non hanno pensato i grandi sindacalisti greci che, dicendo lo sciopero anche ai mezzi di trasporto, la gente non aveva difficoltà a spostarsi da casa e andare alle manifestazioni. E questo è il motivo vero. La verità è che la gente è arrabbiatissima e si vede si vedrà dai risultati della votazione che sarà in Parlamento, si attende per domani a mezzanotte. Ma oggi la notizia è appunto che la Merck Serono, l'industria farmaceutica, non fornirà più il medicinale l'Erbitux, quello che serve per i malati di cancro. Se uno se lo compra da solo senza convenzioni sono quasi 4.000 euro al mese, si arriva alla spesa. No, dico, per cui, ma lì il governo è la sanità greca che non sta pagando, giusto, i fornitori? Sì, la sanità greca che non sta pagando è lo Stato che non sta pagando al sistema sanitario nazionale, cioè tutta una catena di inadempienti, sì. Dimitri, nella speranza di fare un collegamento domani con te dello stesso tenore, cioè non è successo niente, il paese non si è fermato, il governo non è andato sotto in Parlamento. Io ti do appuntamento domani in una puntata che avrà anche e soprattutto il perno sul prossimo presidente degli Stati Uniti, sperando che si sappia almeno per le 17 di domani e per il palinsesto della nostra radio. Grazie a Dimitri De Ioannis, un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi e per chi avesse voglia invece questa sera da mezzanotte in poi anche nel corso della lunga diretta di Radio 24. Radio 24. La passione si sente.